Focus Economia di Sebastiano Barisoni. A 7-9 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia con un record, il primo insulto prima ancora che iniziassi a parlare, va bene così. Vuole sapere un ascoltatore se abbiamo festeggiato per i dati sulla disoccupazione ieri, io, Renzi e Poletti. Troppa grazia, lei mi fa troppo importante, o per il dato al top della corruzione. Allora, nessuna delle due, c'è poco da festeggiare, come spiegavo ieri, sia sulla disoccupazione e occupazione. Parleremo invece oggi di corruzione, perché chiaramente ci occuperemo della legge, ma parleremo anche del contratto dei bancari che è arrivato in serata e dell'accordo Italia-Vaticano, quindi di fatto fa crollare il segreto bancario dello IOR, e anche qui c'è un termine già utilizzato per la Svizzera, la voluntary disclosure, anche per lo Stato Vaticano, quindi il tempo per dire qual è la tua posizione finanziaria nello Stato Vaticano, e poi le sanzioni molto forti nel caso tu non comunichi il vero entro il tempo stabilito. Qui non ci sono ancora delle date, Italia e Vaticano hanno firmato una convenzione in materia fiscale e prevede lo scambio di informazioni dal 2009 e quindi la possibilità di regolarizzare con il rimpatrio dei capitali le posizioni finanziarie che si hanno o che si dovessero avere con lo IOR. L'accordo contiene però anche le norme che confermano l'esenzione dalla tassa sugli immobili per quello che riguarda la Santa Sede. L'Italia è il primo paese con cui il Vaticano sottoscrive un accordo che va a disciplinare lo scambio di informazioni finanziarie, e anche di questo parleremo. Dicevo, la corruzione, approvato con voto segreto, 124 favorevoli. La soglia minima era 121, l'articolo 8 del DDL anticorruzione, i no sono stati 74, 43 gli astenuti. È la prima parte del pacchetto, del complesso della norma anticorruzione, ed è il primo pacchetto sul falso in bilancio. Riscrive la disciplina per le società non quotate in caso di false comunicazioni sociali, è prevista, relativa ai fatti materiali rilevanti, è prevista la reclusione da 1 a 5 anni. Via libera anche all'articolo 9, che relativamente al falso in bilancio per le società non quotate prevede una riduzione di pena da 6 mesi a 3 anni se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società, natura e dimensione della società e delle modalità e degli effetti della condotta. Medesime sanzioni ridotte si applicano poi quando il falso riguarda società non quotate che non superano i limiti dimensionali previsti dalla legge fallimentare, cioè le società veramente veramente piccole. Via libera anche l'articolo 10 sulle false comunicazioni sociali di società, in questo caso quotate in borsa, lì vengono aumentate le pene da un minimo di 3 anni a un massimo di 8 anni. Ce ne occuperemo, perché il falso in bilancio va trattato in maniera non ideologica. Positivo a nostro avviso l'aumento delle pene per le società quotate, la possibilità che vi possa essere una riduzione di pena per le non quotate se i fatti sono di lieve entità va incontro a quella richiesta di distinguere quando, e a mio avviso assolutamente corretta, quando il falso in bilancio è frutto di un atto volontario per appunto arrecare un danno, o quando si tratta di un errore, non dico contabile, ma di un errore veniale. In quel caso non è che scompare la pena, ma c'è la possibilità di ridurla da 6 mesi fino a 3 anni. Mi sembra che un attenuante, quando è dimostrato lieve entità del fatto, le modalità della condotta, la natura e le dimensioni della società, sia un atto ragionevole. Ci sono alcuni casi di falso in bilancio per errori nella compilazione del bilancio, non per una volontà di dolo. Comunque ne parliamo più avanti. E in apertura, chiaramente, invece, come sempre, le notizie in breve, ma anche le dichiarazioni del ministro Padoan in tema di dati sulla disoccupazione. Dice Padoan, insomma, getta acqua sul fuoco, dice: attenzione, i problemi sono precedenti alla crisi, bisogna andare avanti con le riforme. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi la pagina di Focus Economia nel sito di Radio 24 per scrivere su Facebook, twittare e quant'altro. E allora partiamo proprio dal ministro Padoan, che dice, commenta i dati di ieri, ma anche quelli che sono arrivati sulla fiducia e sui consumi, dice c'è un rafforzamento della ripresa, i dati sono via via più positivi, sul lavoro ci sono dati apparentemente contraddittori, ma c'è la variabile di assestamento. So che questa cosa farà discutere, però ascoltiamo Padoan. Vorrei ricordare che la questione degli investimenti in senso lato, come è stato già ricordato, è una questione emblematica della gravità della crisi finanziaria che per molto tempo ha interessato l'Europa e non solo, e anche ovviamente il nostro Paese. La caduta degli investimenti riguarda sia gli investimenti privati che gli investimenti pubblici e costituisce quindi una vulnus sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta, perché la caduta degli investimenti indebolisce la crescita potenziale. Di conseguenza, simmetricamente, far riprendere gli investimenti permette sia di avere un sostegno della domanda nel più breve termine che un miglioramento della crescita potenziale nel medio termine, problema che nel caso dell'Italia è particolarmente acuto viste la perduranza di ostacoli strutturali alla crescita che datano ben prima dello scoppio della crisi finanziaria. Come avete ascoltato, il ministro dell'economia pone l'accento soprattutto sulla caduta che è avvenuta in questi anni degli investimenti. Spesso abbiamo detto che gli investimenti, insomma, il meccanismo è molto semplice. Se ripartono gli investimenti, riparte l'occupazione, se riparte l'occupazione, ripartono i consumi. È difficile che ripartano i consumi se non riparte l'occupazione, perché i disoccupati e i cassa integrati hanno questa strana abitudine di consumare meno, e posso capire che sembri strano, ma è così. Allora, il tema degli investimenti però è un tema anche di carattere europeo, perché va bene che servono gli investimenti privati, ma sappiamo che un effetto volano grosso ce l'hanno anche gli investimenti pubblici. Non stiamo parlando di sprechi pubblici o di spese pubbliche, ma di investimenti. Tocca ricordare che l'Europa non distingue tra una spesa e un investimento, questa è la follia del patto di stabilità e del deficit al 3%, è sempre spesa. Qualunque imprenditore, lo diciamo spesso, invece conosce bene, o qualunque manager, insomma, la differenza tra una spesa e un investimento. Nel primo caso c'è una spesa che non porta a maggiore produttività, competitività e quindi in definitiva a maggiore fatturato. Nel secondo caso l'investimento si fa per essere più competitivi, più produttivi e aumentare fatturato e utili. Allora, se non ripartono gli investimenti, c'è un tema anche di investimenti pubblici bloccati, come sanno bene i comuni virtuosi e gli enti locali virtuosi, che non possono spendere i soldi che hanno in cassa perché sennò fanno sballare il tetto del deficit al 3%, con la conseguenza che i comuni viziosi sono quasi avvantaggiati, hanno speso male ma hanno speso. Quelli virtuosi che hanno risparmiato non possono fare cose banali come manutenzione delle strade, edilizia scolastica, che però farebbero ripartire micro investimenti sul territorio. Allora, il ministro dell'economia dice nel documento economico finanziario che presenteremo il 10 aprile a Bruxelles, il governo punta ad essere il più espansivo possibile, di esserlo in modo selettivo a sostegno dell'occupazione e degli investimenti a livello locale, pur rispettando i vincoli di mercato e di bilancio. Però, aggiunge Padoan, il patto di stabilità interno va superato, quello a cui facevo riferimento, perché funziona male, e l'intenzione del governo è di avvalersi della nuova flessibilità europea nel modo più efficiente possibile. Il DEF sarà pronto tra pochissimi giorni, sarà presentato al Parlamento alla fine della settimana prossima. L'intenzione è quella di essere non solo i più espansivi possibili in questi vincoli, ma di esserlo in modo selettivo al sostegno dell'occupazione. Come sapete, la nuova comunicazione sulla flessibilità introduce la clausola degli investimenti, che permette una temporanea deviazione dal sentiero di aggiustamento del saldo strutturale in relazione a spese cofinanziamento degli investimenti strutturali. Questa è un'opzione importante, valuteremo se e quando soprattutto utilizzarla. È intenzione del governo di avvalersi della nuova flessibilità nel modo più efficiente possibile in una prospettiva di medio termine. grazie anche ad alcuni che scrivono complimenti. Adesso non voglio leggere complimenti, sarebbe veramente poco elegante. Però andiamo avanti con il ministro Padoan. In effetti abbiamo chiesto da questo punto di vista che il governo, modestamente abbiamo chiesto, sia ancora più coraggioso in Europa se non sfrutta questa finestra di petrolio intorno ai $50, titoli di Stato ai minimi storici come rendimento, euro anche oggi, non ho dato la borsa, poi ve la do, euro anche oggi a 1,07. Beh, se non va adesso a chiedere una politica più coraggiosa in Europa, secondo noi si perde una grande occasione. Non si può pensare di uscire da questa crisi con lo 0,6 all'anno e un aumento della, o una diminuzione della disoccupazione dello 0,2, perché ci mettiamo così tanto tempo che manco ce ne accorgiamo. Su questo c'è stato un po' di incertezza sulla frase esatta del ministro Padoan, che ha lamentato una scarsa chiarezza su come funziona il fondo lanciato da Juncker. A nostro avviso è, diciamo, più fumo che arrosto, perché immagina che vi saranno 300 miliardi di investimenti privati, mettendo sul piatto al massimo 20 miliardi di investimenti europei, ripeto, non nuovi tra l'altro, perché vengono stornati da altri fondi. Le agenzie hanno battuto la notizia per cui il ministro Padoan avrebbe detto che l'Italia esclude contributi diretti al fondo di Juncker fino a quando gli stati partecipanti continueranno a non avere voce in capitolo nella scelta dei progetti da finanziare. La frase è un po' diversa, ascoltiamola in primo luogo. L'idea iniziale era che Alfeis contribuissero direttamente con contributi diretti in termini di risorse gli stati membri. Questa idea era inizialmente un'idea basata sul concetto di contributi volontari. Non c'è stata una reazione molto positiva da questo punto di vista. Gli stati hanno in generale mostrato molta poca propensione a contribuire direttamente. L'idea è ancora formalmente in piedi, la pratica mi sembra possa escludere contributi diretti da parte degli stati membri. Molti stati, alcuni stati, fra cui l'Italia, hanno invece deciso di contribuire attraverso le banche nazionali promozionali, quindi in questo caso con il caso italiano la Cassa Depositi e Prestiti, la Caisse des Dépôts in Francia, il KfW in Germania, questi tre paesi ciascuno con 8 miliardi, che vanno ad aggiungersi alla capacità di fare leva nei confronti di investimenti privati e che quindi migliorano il potenziale complessivo. Oh, vedo che molti ascoltatori sorridono sulla frase usata dal ministro Padoan. Quella riferita ai dati del mercato del lavoro di ieri, emergono numeri apparentemente contraddittori, ma sono segnali di assestamento. Insomma, segnali di assestamento. Ci ricorda, insomma, qualcosa, dai. Tarapia tapioco! Rematurata la supercazzola o scherziamo? No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribale con Befadina, come antifurto, per esempio. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola rematurata ha perso i contatti col tarapia tapioca. No. Allora, partiamo con gli approfondimenti, fermo restando che Milano guadagna lo 0,80%, Parigi più 0,60%, Francoforte più 0,40%, Londra più 0,60%, l'America meno 0,40%, euro a quota 1,07. G-Tech meno 2,44%, Pop Emilia Romagna meno 1,50%, Ferragamo meno 1,30%, come Buzzi Unici ed ST Microelectronics, Enel Green Power meno 1%. Fronte opposto invece Yux, di nuovo fortissima oggi, dopo l'accordo, più 9,40%, Campari più 3,70%, Mediaset più 3,5%, Enel più 3,20%, Finmeccanica più 2,40%, A2A più 1,80%, Snam più 1,5%, Intesa più 1,30%, Unicredit più 1%. Allora,

È arrivato il primo sì alla riforma della pubblica amministrazione, speremme. La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha infatti concluso l'esame e approvato il testo, che in gran parte è stato rivisto, lo dico per inciso, rispetto al testo iniziale. Allora, praticamente i dirigenti della pubblica amministrazione italiana, che non tutti, ci mancherebbe, però in media sono i più pagati a livello europeo, i dirigenti privi di incarico vengono collocati in disponibilità e, passato un certo periodo da definire, decadono dal ruolo unico, perché attualmente restiamo dirigenti e basta. Lo prevede appunto una delega alla riforma della pubblica amministrazione. In sostanza, questo rende licenziabili i dirigenti. Voi direte: ma perché un dirigente non era già licenziabile? No, nel pubblico impiego no. Niente più automatismi poi per il percorso di carriera che porta alla dirigenza, dipenderà dalla valutazione. Faccio notare che però quando c'è da valutare i dirigenti che hanno raggiunto l'obiettivo della pubblica amministrazione, abbiamo sempre il 98-97% di valutazioni positive, o sono tutti dei geni e nel privato hanno preso solo i mona, oppure c'è qualcosa che non va nella valutazione. Per diventare dirigenti, oltre al concorso, bisogna fare anche un esame dopo i primi anni di servizio. I segretari comunali sono aboliti, ma resterà una fase ponte per 3 anni. La figura scomparirà, resteranno invece le funzioni di controllo della legalità. Poi arriviamo al falso in bilancio. Ringrazio invece per averci raggiunto in collegamento il segretario generale della FABI, che è il principale sindacato dei bancari italiani, e mi riferisco a Lando Sileoni. Buonasera. Buonasera, direttore. Allora, ci avete messo quanto tempo alla fine, per quanti mesi, perché è la terza volta che lei viene, sì. Però quanti mesi erano, perché ho perso il conto anch'io. Un anno e mezzo, 18, ecco, 18 mesi, avete firmato il contratto che coinvolge 300.000 bancari, visto che già 28.000 sono scomparsi, si è ridotto il vostro numero dal 2008 ad oggi. Nello stesso periodo sono stati chiusi anche 1.000 sportelli, oggi sono in tutto 32.500. Allora, aumento medio a regime di 85 euro in 3 anni, voi chiedevate 120 euro. Sì. Adesso il testo dovrà passare al vaglio dell'esecutivo dell'ABI e delle assemblee sindacali. Comunque, mantenuta e difesa l'area contrattuale, valorizzati gli inquadramenti, il salario di ingresso per i giovani assunti è aumentato dell'8%. Sì. E dal punto di vista sociale si crea una piattaforma bilaterale per la ricollocazione nel settore del personale licenziato in caso di crisi aziendale. Me la traduce questa? Significa che, semplifico per chi ci ascolta, è una sorta. Ma anche per il conduttore che non ha capito nulla, prego. È una sorta di agenzia di ricollocamento. Se ci saranno gravi crisi aziendali, con questo strumento è stata creata una cabina di regia per trovare la possibilità poi di ricollocare il personale in esubero, in presenza di gravi crisi aziendali. Non ha precedenti rispetto anche ad altre categorie, e questo per noi è fatto a livello sociale estremamente importante. Vi faccio aggiungere una cosa, se me lo permette. Sono stati 18 mesi di trattative durissime, questa è stata una vera e propria battaglia, e noi siamo convinti di aver salvato la categoria con questo accordo. Se non avessimo fatto l'accordo, noi avremmo dovuto gestire, senza un contratto nazionale, senza tutele contrattuali, le prossime fusioni, i cambiamenti in atto all'interno del sistema bancario, senza nessuna garanzia contrattuale. Per noi il fatto di aver evitato la disapplicazione è un risultato sicuramente positivo sotto ogni punto di vista. Secondo lei, perché, immagino siano bancari, molti ascoltatori mi stanno scrivendo che il contratto che avete firmato è, glielo dico con un francesismo, uno schifo. No, non è che li abbiamo solo noi, cioè, cos'è che può non essere piaciuto secondo lei? Perché non hanno letto, probabilmente, perché dovrà essere spiegato bene. Il contratto non cade da cielo per grazia divina, va conquistato. La nostra controparte, le banche, volevano toglierci tutto, volevano interrompere la crescita automatica del costo del lavoro. Noi abbiamo recuperato il 2,95% dell'inflazione in presenza di un momento di deflazione, e a questo abbiamo evitato il pagamento, la compensazione rispetto agli scatti di anzianità. Quindi l'incremento va valutato mettendo insieme 2,95 dell'inflazione più l'1,70 che abbiamo evitato di congelamento degli scarti. Allora, dopo prego. Tenga presente che è il primo contratto, forse il secondo dopo quello del commercio, che è stato in questo periodo concluso, e che eravamo sotto la lente di ingrandimento anche da parte di altre categorie, perché tutti stavano osservando la fine del nostro contratto per poi... Quali categorie? Ci sono tante altre categorie, ci sono da rinnovare altri 39 contratti nazionali. Are you with me? Are you with me? Di nuovo in diretta. Allora, soddisfatto il segretario generale della Wilca, Massimo Masi, al microfono, come dicevo, della nostra Valeria De Rosa. È chiaro che va tenuto conto la situazione del paese, la situazione politica, la situazione economica delle banche del paese, quindi un contratto difficile, ma con un contratto siamo riusciti a mantenere l'area contrattuale di inquadramenti fermi per 4 anni, un aumento economico in questi 4 anni che riguarda il 3,1% quindi copre l'inflazione, un aspetto di azione sociale, di anima sociale come l'abbiamo chiamata, che dà vantaggi ai nuovi assunti, la possibilità di fare nuove assunzioni, di avere una copertura maggiore per i nuovi assunti con un contratto di ingresso che è a cifre superiori di circa 300 euro rispetto a quello passato, la possibilità di, attraverso il nostro fondo sia per l'occupazione, che ci può dare tutta una serie di garanzie anche extra rispetto all'occupazione e il mantenimento del fondo di solidarietà e di sostegno al reddito, ci danno delle garanzie incredibili. L'altro aspetto importante è quello di avere concordato con ABI che in caso di aziende bancarie che dovessero fallire, licenziare personale, le altre banche prima di fare assunzione passerebbero attraverso il fondo emergenziale per poter quindi riassorbire il personale. D'accordo anche sul fatto che l'intesa punti molto sul tema dei ricollocamenti in caso di esuberi, il segretario generale della FIBA CISL Giulio Romani. Ma anche se non ce lo dicono lo sappiamo che i prossimi mesi saranno molto difficili. Basta pensare alla riforma delle banche popolari che da sola potrebbe produrre circa 20.000 esuberi. Quindi meglio avere un contratto in mano per almeno tentare di parare i colpi? Certamente è meglio avere un contratto in mano per parare colpi e certamente è meglio avere un contratto in mano che duri a sufficienza da poter garantire la tenuta della categoria dentro un periodo relativamente lungo. Comunque la parte relativa ai giovani mi sembra una buona soluzione. Certamente è buona quella soluzione, ma noi è tanto che stiamo lavorando sui giovani, già col precedente contratto abbiamo fatto il fondo per l'occupazione, oggi il fondo per l'occupazione oltre che come incentivo ai giovani servirà anche ad occupare purtroppo i non giovani che hanno perso il lavoro, dando un incentivo anche per l'occupazione di questi. Certamente aver ridotto il divario nel salario d'ingresso per i giovani è un buon risultato per questi. Allora, chiedo al segretario del principale sindacato italiano dei bancari, la FIBA quindi, Lando Sileoni, Fabi, la FIBA è tutt'altra cosa, mamma mia, poi c'è Fabi FIBA a quel punto, bruttissima battuta, vedo che il tecnico mi guarda male. Sileoni, al di là del giudizio degli ascoltatori, che insomma, alcuni criticano questo contratto, altri scrivono: chi critica questo contratto non capisce che cosa abbiamo rischiato. Immagino siano tutti bancari, ma insomma, non la volete smettere di, con sta cosa delle banche popolari, 20.000 esuberi? Cioè, sembra quasi che la difesa delle banche popolari o dell'attuale statuto delle banche popolari, che tanto il governo va a cambiare, sia una difesa dell'occupazione, quando sappiamo che in realtà, cioè, rischiate di essere, se mi passa il termine, dei gentili portatori d'acqua o degli ignari portatori d'acqua a altri tipi di interessi, che sono quelli che si muovono sulle banche popolari, che vorrebbero che quel connubio tra banca popolare, poteri del territorio, non venisse toccato nemmeno quando le banche hanno più di 8 miliardi di asset e quindi hanno dimensioni non da BCC o da credito cooperativo. Sileoni. Direttore, lei questa domanda già me l'ha fatta una volta. Lo so, ma io... No, ma posso rispondere, perché so che lei ama il confronto. Intanto lo schifo del contratto non c'è, non mi riferisco a lei, mi riferisco a chi ha scritto, perché hanno risposto benissimo i miei colleghi. Rimanere senza un contratto significa andare al massacro, perché significa non avere più tutele né garanzie contrattuali di fronte a eventi che cambieranno radicalmente il sistema bancario. Detto questo, i 20.000 esuberi sono stati dichiarati dall'Asso Popolari, mai certificati da noi, nel momento in cui l'Asso Popolari, l'associazione delle banche popolari, voleva spaventare il governo di fronte all'iniziativa che il governo Renzi aveva fatto rispetto alle riforme, al passaggio delle popolari in SPA. Quindi questi 20.000 noi non sappiamo né dove eventualmente sono, né come sono stati, diciamo così, creati, né perché sono nati. Sappiamo come dire, principalmente che è una giustificazione, una controrisposta politica che a suo tempo le associazioni delle banche popolari hanno dato in risposta al governo, all'iniziativa del governo. Citatela, perché era una cifra tra virgolette pretestuosa. 20.000, non si capisce ancora quali saranno le fusioni, come fai a sapere quanti sono gli esuberi? Ma non l'abbiamo citata noi. La ragione Romani è comunque metterla sul piatto, perché però voi vi attendete che vi saranno altre, insomma, anche a livello di Banca Centrale Europea, di governatore della Banca d'Italia, il consolidamento viene chiesto da più parti, che poi il consolidamento altro non vuol dire che fusioni e accorpamenti, ma certamente noi vogliamo garantire, noi vogliamo evitare i licenziamenti in caso di fusione, vogliamo garantire quello che abbiamo garantito fino adesso, prepensionamenti volontari, non siamo contro i prepensionamenti obbligatori, siamo e faremo di tutto per evitare i licenziamenti. Per evitare i licenziamenti abbiamo bisogno dell'area contrattuale, che è uno strumento previsto all'interno del contratto nazionale. Però mi conceda di rispondere all'altra di domanda. Noi come Fabbi, e non voglio fare demagogia, siamo stati gli unici che hanno commissariato all'interno della Popolare di Milano la rappresentanza Fabbi quando non rispondeva più agli interessi dei lavoratori, ma rispondeva, come diceva lei, a tutt'altre logiche. Quindi io non voglio essere tirato in causa e non mi sento subalterno né ai signorotti, come li ha chiamati. No, io non ho detto signorotti, ho detto all'intreccio tra potere bancario locale e poteri locali, ma che cosa, politici. Lei ci potrà sicuramente capire e permettere che se noi abbiamo la possibilità nelle banche popolari ogni 3 anni di andare a votare e di far pesare il nostro voto, lo facciamo nel momento in cui possiamo valutare la gestione della banca in quel periodo e possiamo tranquillamente scegliere se confermare quel manager o se cambiarlo. Fino ad oggi è uno strumento che noi abbiamo in qualche modo appunto portato avanti e lo abbiamo fatto nel rispetto del DECI. Una sorta di massoneria. Ma chi l'ha mai detto? Attenzione Sileoni alle scusate non petite. Io non ho mai detto, ho detto semplicemente: attenti che per difendere magari l'occupazione, che comunque lo sappiamo già, se poi le banche vanno a consolidarsi lo fanno con o senza la riforma delle popolari, da questo punto di vista attenzione perché rischiate di fare gli ingenui portatori d'acqua invece in chi ha un interesse diverso per mantenere lo status quo delle popolari. Ingenuo non è nessuno, tenga presente che quelli che hanno contrastato fino ad oggi il rinnovo del contratto nazionale sono stati i signorotti delle banche popolari, che teoricamente avrebbero dovuto ringraziarci quando ci siamo schierati al loro fianco, ma non è che ci siamo schierati al loro fianco per difendere le loro poltrone, lo abbiamo fatto esclusivamente per difendere il nostro diritto a andarsi e poter poi scegliere. Va bene, comunque ho capito anche che questo contratto, che ha dovuto giustamente, come in tutti i contratti, se si arriva a un accordo, cedere. Per esempio, voi chiedevate 120 euro regime di aumento medio, sono 85 euro in tre anni, però ha puntato molto all'eventualità realistica, secondo voi, che vi possono essere altri esuberi nel settore, e quindi la parte che riguarda la ricollocazione di chi dovesse perdere il posto di lavoro. E questo è il titolo, non è un mio giudizio, lo dico a chi sta scrivendo. Uno può pensare che sia un buon contratto o un cattivo contratto. Non facendo io il bancario ho difficoltà a esprimere un giudizio, diciamo, così netto, però li raccolgo, li registro. Grazie anche a Lando Sileoni, segretario generale della FABI, che è la Federazione Autonoma Bancari Italiani. Grazie, dottore. Adesso andiamo verso la borsa, dov'è la borsa? Appena il terminale si riattiva, sì, anche la viabilità. Più 0,90% Milano, più 0,60% Parigi, più 0,30% Francoforte, meno 0,44% in questo momento l'America. Euro a quota 1,07, miglior titolo anche oggi Jux, più 9,50%, poi Campari più 3,70% come Mediaset, Enel più 3%, Finmeccanica più 2,5%. Fronte opposto, G-Tech meno 3,20, Pop Emilia Romagna meno 1,40, ST Microelectronics meno 1,30, Buzzi Unice meno 1,1, Enel meno 1 come Ferragamo, Saipem perde mezzo punto percentuale. Eleonora Micheli, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora, Jux, insomma, dire che piace la fusione è quasi un eufemismo, oggi un altro 9,5%. Sì, la fusione, come dici tu, piace agli investitori, piace agli analisti, ma soprattutto già il mercato si interroga su cosa succederà dopo la fusione. Ricordiamo che ieri l'azienda ha indicato che dopo la fusione con Net-a-Porter il nuovo gruppo lancerà un aumento di capitale da 200 milioni di euro, operazione che non solo favorirà la crescita del gruppo, ma soprattutto darà la possibilità a nuovi eventuali potenziali azionisti di entrare, azionisti stabili, e quindi già si inizia a pensare a futuri riassetti azionari. Poi Mediaset, qui nonostante il no della Consob, ma soprattutto il no del Consiglio di Amministrazione di Rai Way all'operazione con A-Towers, le torri, i ripetitori della Rai, il titolo guadagna molto oggi? Sì, guadagna soprattutto Mediaset, mentre invece hanno limato sia le A-Towers sia le Rai Way. Che dire, innanzitutto alcuni forse perché non deve spendere soldi, chiedo. Sì, esatto, alcuni analisti iniziano a ipotizzare che se A-Towers non lancerà l'offerta pubblica su Rai Way, o comunque se al limite rivedrà l'offerta, ma ovviamente acquistando una quota inferiore del capitale, in ogni caso risparmierà soldi, potrebbe a quel punto decidere di distribuire la liquidità che ha in pancia e quindi di dare una maxi cedola. Il primo azionista, ricordiamo, è Mediaset, che ha il 40% del capitale, quindi sarebbe il primo a beneficiare di questa eventuale maxi cedola. Ovviamente per ora sono solo ipotesi che stanno facendo sul mercato operatori e investitori. E questo per quello che riguarda Mediaset. Altro titolo oggi, altri titoli oggi in evidenza, Enel più 3% e Finmeccanica più 2,5%. Devo dire che tutte le partecipate vanno bene, Snam più 1,80%. Chiudo invece con una non partecipata, anche se appunto non è privata, A2A più 1,70 anch'essa. Le banche leggermente positive, Intesa San Paolo più 1,1%, Unicredit pure. E poi Monte dei Paschi più 0,50%. Enel, sì, da Enel un lato, ma dall'altro anche Enel Green Power. Sì, Enel è andata bene, ma oggi si è risvegliato un po' tutto il settore, peraltro europeo, dell'energia. Enel ha fatto appunto questo più 3%, invece la controllata Enel Green Power ha perso l'1% proprio all'indomani dell'operazione di annuncio di cessione di una NewCo che detiene negli Stati Uniti. In verità è stato ceduto il 49% del capitale per 440 milioni di dollari, operazione che peraltro è stata apprezzata dagli esperti, visto che Enel Green Power continua nel processo di razionalizzazione di quelle che sono le proprie partecipazioni. D'altra parte è stato anche un momento per riflettere sull'azienda: il mercato lamenta scarsa visibilità sugli utili futuri e quindi ha punito alla fine i titoli con questo meno 1%. Ancora tra i titoli citiamo Pirelli. Perché Pirelli? Non tanto per il movimento, quanto perché insomma il titolo continua a essere stabilmente, adesso vado a prendere l'ultimo prezzo di riferimento, eccolo qua, più 0,26%, però stabilmente sopra i 15 euro per azione, 15,5 euro. Sì. Ma veramente in assenza di notizie c'è chi scommette che vi sarà un rilancio? Assolutamente sì, non solo, ma circolano numerosi report da parte degli analisti in cui si scommette appunto sul rilancio, tant'è che vengono indicati target price di cui non parliamo, ma sono molto anche più elevati rispetto a questo prezzo a cui si attestano adesso le azioni. Peraltro ieri ricordiamo che la società ha annunciato l'utile, 319 milioni, un po' inferiore alle attese, ma soprattutto ha deliberato le cedole che saranno pari ad esempio a 0,3 euro per le azioni ordinarie, ma pur mettendo in conto 0,3 euro di cedola, le Pirelli comunque si attestano al di sopra del prezzo dell'OPA che lancerà CEM China a 15 euro, hanno chiuso esattamente a 15,5 euro. Ancora tra i titoli, oggi è il penultimo giorno di quotazione per G-Tech, no? Perché poi non è che viene delistata in senso stretto, ma va a Wall Street dopo la fusione con la società americana, meno 3,20%. Sì, oggi penultimo giorno, domani ultimo giorno, il prossimo 7 aprile. Sì, dopo domani fine. Sì. Ieri era terz'ultimo. No. Il 7 aprile si fonderà con l'azienda americana Game Technology, International Game Technology, e da quel giorno sarà quotata a Wall Street appunto come IGT. E, evidentemente cioè, il mercato dà così l'addio alle azioni con questo calo del 3%, sebbene peraltro anche le analisi sull'operazione di fusione invece siano state positive da parte degli esperti e della maggior parte delle SIM. Allora, migliori e peggiori in assoluto, tra l'altro oggi Eleonora c'è un titolo, c'era anche Pininfarina in evidenza. Poi sì. Adesso non riesco più a trovare. No, adesso alla fine ha chiuso solo con più 0,26%, ma ricordiamo che solamente dal 25 marzo le azioni sono volate quasi del 50%. Sì. C'è la notizia in più che oltre agli indiani di Mahindra sono interessati alla società anche gli americani di Chain Capital. Si tratta di un fondo di investimento che vorrebbe rilevare l'azienda. Vediamo a questo punto che cosa succederà. Nel giorno in cui invece sappiamo che Autogrill, non Wall Duty Free, Autogrill è entrata in Cina negli aeroporti di Pechino e Sanya, joint venture con i principali operatori del settore food and beverage, si stimano ricavi complessivi per 50 milioni di euro per i due contratti nei prossimi 6 anni. Migliori e peggiori, quanto ho? 10 secondi. Migliori e peggiori, Media Contact più 24,50, Landi Renzo più 14, appunto Yux, fronte opposto che fa più 9, Novare meno 6,30, Clabo meno 5,90, BB Biotech meno 5,32%. E 10 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo dell'accordo, il primo che lo Stato del Vaticano, quindi la Santa Sede, firma con un paese in tema di trasparenza fiscale, e poi arriviamo invece alla legge sulla corruzione. Allora, per quello che riguarda il Vaticano, dicevo, primo accordo firmato in materia fiscale l'annuncio arrivato dal segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano Paul Richard Gallagher e dal ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Prevede scambi di informazioni dal 2009 e la possibilità di regolarizzare il rimpatrio dei capitali. Carlo Maroni del Sole 24 Ore, buonasera Carlo. Sì, buonasera a voi, ciao. Ricorda un po' anche il termine voluntary disclosure, l'accordo fatto con la Svizzera, questo accordo fatto tra Stato italiano, sì, e Vaticano, prego. Sì, sì, lo ricalca assolutamente, anche specificato in delle spiegazioni che poi il Vaticano ha fatto, dicendo che sostanzialmente sono le norme dell'OCSE che sono state in qualche modo ricalcate in questo accordo. Del resto era stato Renzi in un'intervista all'Espresso, credo 3 settimane fa, all'indomani dell'accordo con la Svizzera, dicendo stiamo chiudendo anche con il Vaticano, rompendo una cortina di silenzio che devo dire forse per la prima volta aveva mantenuto, diciamo, il segreto abbastanza in maniera molto molto solida. Questo segreto comunque sia è arrivato, un accordo fiscale, quindi amministrativo, riguarda solamente le questioni amministrative e non quelle penali, quelle riguardano ancora, ci sarà ancora, diciamo, la vecchia procedura delle rogatorie attraverso la magistratura. Queste sono le autorità fiscali, in questo caso italiane, perché l'accordo di fatto è unilaterale, non sarà mai che il Vaticano chiederà informazioni all'Italia. Beh, insomma, dubito. No, il Vaticano ha i suoi cittadini che sono fondamentalmente cardinali, però non ha, diciamo così, una legge fiscale interna che gli preveda di chiedere informazioni solo per quello. E quindi, diciamo così, tra per esempio la nostra agenzia delle entrate che potrà chiedere al Vaticano, quindi alla Santa Sede, se cittadini o enti o società italiane hanno attività finanziarie detenute o depositi presso il Vaticano e averne informazioni. E più, come dicevi giustamente, farli rientrare in Italia. Ci sono dei soggetti che li detengono in modo assolutamente legale, mi riferisco a tutti gli istituti religiosi, francescani, gesuiti, che hanno sede tecnicamente in Italia, cioè nel territorio italiano, certo, ma hanno il conto allo IOR perché è, diciamo, il mezzo con cui poi quasi interamente fanno arrivare i loro soldi nelle missioni, per esempio. Quindi, diciamo, è un mezzo legale, assolutamente legale. Poi ci sono invece, come nelle pieghe di questi enti, quelli che poi se ne sono, forse ancora se ne approfittano, usando lo IOR come una propria piattaforma offshore. Esatto. Questo è molto cambiato, onestamente, negli ultimi 3 anni, però forse ancora. Però ufficialmente, definitivamente crolla il segreto bancario dello IOR, questo possiamo dirlo in maniera abbastanza. Nei confronti dell'Italia. Nei confronti dell'Italia, l'accordo è solo con l'Italia. E ci mancherebbe. Tra l'altro. Ci sono dei vantaggi, diciamo, anche per lo Stato Vaticano, nel senso che una procedura ad hoc consentirà a società e persone fisiche di beneficiare delle stesse agevolazioni previste dalla legge sul rientro dei capitali, quella famosa approvata a fine anno dal Parlamento italiano, esatto, e dove c'è la riduzione delle sanzioni amministrative per omessa compilazione del quadro unico, mentre sul fronte penale appunto la non punibilità per i reati di dichiarazione infedele. Detto questo, il vero vantaggio per il Vaticano è tra virgolette l'uscita dalla grey list, dalla lista grigia? Questo ancora, diciamo, dovrà decidere l'OCSE attraverso questo gruppo che si chiama il GAFI, cioè è una cosa, una procedura complessa. Però verosimilmente cambierà molto, perché c'erano due temi con l'Italia, questo era uno, e l'altro era i rapporti bancari, cioè la Banca d'Italia 4 anni fa ha di fatto chiuso i rapporti bancari tra Italia e IOR, perché lo IOR poi di fatto è l'unico soggetto, diciamo, che ricorda la banca, e perché non si rispettava le norme sulla trasparenza, altri tipi di norme, non queste, le norme appunto della trasparenza internazionale, e ancora questi rapporti non erano stati in qualche modo riattivati, anzi non erano stati riattivati per niente, ed era di fatto l'Italia l'unico paese, curiosamente, che non aveva rapporti bancari e finanziari con lo IOR. E accade, ci sono tanti fatti accaduti in questi ultimi 3 anni che poi hanno, diciamo così, cambiato un po' questo clima, però ancora rimane ancora a quanto risulta questo blocco. Forse dopo questo accordo sbloccherà anche questa situazione. Sicuramente per il Vaticano, di Francesco è anche un atto, come dire, certo, politico, oltre che amministrativo, forte. Questo vale per l'Italia, ma sicuramente. E vedremo poi se arriveranno altri accordi. Grazie intanto a Carlo Maroni, adesso c'è il traffico, e poi invece parliamo dell'Italia, in questo caso, dell'approvazione con voto segreto di alcuni articoli del DDL, disegno di legge anticorruzione, articolo 8, articolo 9 e anche articolo 10, oggi approvati. Dunque, Dunque, non è più una notizia, purtroppo, come nelle classifiche internazionali noi quanto a corruzione figuriamo sempre e regolarmente nelle ultime posizioni, 2014 90° posto, dietro Turchia, Spagna, Stati Uniti e tutti i paesi europei. 60 miliardi il costo della corruzione nel nostro paese, secondo un calcolo per difetto fatto dalla Banca Mondiale. Allora, approvato, dicevo, oggi con voto segreto, 124 voti favorevoli, l'articolo 8 del DDL anticorruzione, che riscrive le discipline per le società non quotate e per le quotate. Se posso introdurre in questo modo il collega del Sole 24 Ore, Giovanni Negri, buonasera. Buonasera a voi. E grazie anche a Salvatore Bragantini, ex commissario Consob e consulente di Borsa Italiana per le piccole e medie imprese. Buonasera, dottor Bragantini. Buonasera. Se posso dare un titolo, dicevo, Giovanni, sì, resta la pena per il falso in bilancio per le società non quotate, però viene previsto un alleggerimento quando vi siano alcune modalità, tenuto conto della natura, delle dimensioni della società e degli effetti della condotta. Cioè, da 6 mesi la pena resta, però la riduzione può essere da 6 mesi a 3 anni se i fatti sono di lieve entità, mentre si inasprisce quella per le società quotate. Giovanni. Sì, esattamente. Allora, una premessa di ordine generale. In questi minuti viene votata dal Senato tutta la legge anticorruzione. Guarda, è appena passata ora. Perfetto. C'è un flash agenzia. Approvato dal Senato tutto il disegno di legge anticorruzione con 165 voti favorevoli, 74 contrari, 13 astenuti. Adesso va alla Camera. Esattamente. Benissimo, siamo veramente in presa diretta, ecco. Per quanto riguarda il falso in bilancio, che è stato oggetto del voto dei senatori nel corso della mattinata, sì, è così. C'è una scalettatura delle sanzioni a seconda delle dimensioni della società e del fatto che sia o meno quotata in borsa. Se è quotata, è vero, la pena può arrivare fino a 8 anni. Devo dire, un unicum nel panorama almeno del diritto penale societario europeo. Tanto per dare un'idea, nel Regno Unito, dove il mercato finanziario ha delle dimensioni forse un pochino diverse dal nostro, comunque il falso in bilancio è sanzionato nel massimo fino a 7 anni. Noi lo abbiamo messo a 8 per le quotate, quindi diciamo, da questo punto di vista ci poniamo, almeno per chi misura in anni di carcere, il livello di efficacia e di deterrenza di un sistema penale all'avanguardia. Per quanto riguarda invece le società non quotate, il discorso invece deve essere un po' più articolato, perché il legislatore e il governo ha sicuramente usato un occhio di riguardo per queste società. Le pene sono minori, fino a 5 anni, ma possono scendere ulteriormente quando i fatti sono particolarmente lievi, oppure arrivare sino ad una causa di non punibilità, la cosiddetta archiviazione per tenuità del fatto, che guarda caso proprio da domani invece entra ufficialmente in vigore. Quindi una non punibilità complessiva quando l'offesa è stata limitatissima e quando la condotta dell'autore del reato non è abituale. Se poi l'impresa è addirittura piccolissima, non solo media piccola e non quotata, ma piccolissima, cioè sta al di sotto delle soglie di fallibilità, cioè quelle previste dalla legge fallimentare, allora le pene sono comunque quelle minime previste e la procedibilità del reato non è più d'ufficio come in tutte le altre fattispecie, ma diventa invece a querela dei soci o dei creditori. Allora, dottor Bragantini, lei che è sempre molto, non dico caustico, ma severo su questo, è soddisfatto o no? Perché da come la capisco io, sulle società non quotate si introduce il principio che, fermo restando che vieni condannato, però se l'errore è un errore veniale, è un errore contabile, ma non c'è del dolo dietro, non c'è la volontà di falsificare un bilancio, ci sono delle attenuanti. Questo va fatto molto discutere, ricorderete, nei mesi passati. Bragantini. Ma se la cosa sta in questi termini, quindi se manca il dolo, francamente non la vedo male. Io penso che, diciamo, da quello che ho sentito, poi bisognerà leggere bene l'articolato e tutto, ma da quello che ho sentito a me sembra un passo avanti importante. Cancelliamo una norma che ci aveva fatto vergognare internazionalmente, perché era chiaramente strumentale a, diciamo, dare via libera a una serie di condotte molto nocive alla collettività. Certo. E anche alle imprese, naturalmente. E poi si può discutere su alcuni punti, ma francamente da quello che ho sentito io mi riterrei da moderatamente, direi soddisfatto senza moderatamente, diciamo abbiamo visto tempi peggiori, ringraziamo. Bene, beh, questo, già che lei sia moderatamente soddisfatto è già una notizia. Adesso il DDL corruzione va alla Camera. Giovanni Negri, non dovrebbero esserci novità, nel senso che lo scoglio più difficile era quello anche sulle società non quotate e a quanto avresti ridotto la pena. C'era, inizialmente si era ipotizzato anche di renderla diciamo una pena, non dico accessoria, ma non praticabile quando il danno non era appunto voluto, non c'era del dolo. Adesso c'è una riduzione della pena, ma resta comunque la pena. Ci aspettiamo novità alla Camera? Credo di no, anche perché i rapporti di forza alla Camera, lo sappiamo, sono certo diversi rispetto al Senato, e quindi anche la necessità di raggiungere degli equilibri, dei punti di equilibrio tra le forze politiche viene un po' ad essere attenuata. Devo dire che però sul tema soprattutto del falso in bilancio le sorprese sono veramente dietro l'angolo, tanto per dare un altro elemento di cronaca, questa mattina quella norma di cui abbiamo discusso adesso, cioè quella del falso per le società non quotate, è passata per 3 voti. Sì, ecco, su questo è stato detto anche dal ministro Orlando, non è un mistero che si trattasse di materia delicata, e quindi insomma l'ok è arrivato in maniera molto risicata, 124 voti favorevoli, la soglia era di 121 voti, per cui siamo andati vicinissimi al non raggiungimento, mettiamola così. Invece, per ciò che riguarda altri elementi, non vi sarà la possibilità di effettuare intercettazioni per le società non quotate, l'uso è consentito per le società quotate. Questa è una delle conseguenze dell'approvazione dell'articolo 8, e appunto per le società non quotate la pena, ma lo ricordo visto che ce lo chiedete, per le false comunicazioni arriva a un massimo di 5 anni, bocciato l'emendamento che lo portava a 6 anni, e quindi non sono consentite le intercettazioni. Bragantini, è facile dirlo, però non è che basti questo per bloccare le false comunicazioni societarie. Però mi sembra di capire dal suo ragionamento che è importante anche il messaggio che la politica dà. A suo tempo molti dissero, attenzione, che abrogare le pene sul falso in bilancio è un segnale che va al di là dell'attività della magistratura e dell'applicazione della legge, è un segnale politico. Certo, è vero e condivido. Diciamo, rispetto a quello che ho sentito ora... Io ho qualche obiezione: se si dovessero proprio fare i cambiamenti, una società non quotata potrebbe essere molto grande ed essere molto importante comunque, quindi diciamo se qualcuno dovesse metterci le mani sopra, io suggerirei che per le non quotate si facesse anche un fatto di dimensione. Abbiamo grandissimi gruppi quotati in Italia, non quotati, chiedo scusa, pochi ma grandissimi, non quotati, che hanno un'importanza enorme per il sistema, e ci sono anche i creditori e non solo i soci da tutelare, quindi creditori, che sia quotata o non quotata, non cambia nulla. Un'altra cosa che secondo me, sulla quale bisogna stare attenti e vigili, è un tema sollevato da mio collega editorialista del Corriere, nonché specialista in cronaca giudiziaria, Ferrarella, nei giorni scorsi, sul punto se queste possano fare oggetto di reato anche le valutazioni. Allora parliamo di, per esempio, nelle banche, la valutazione dei crediti, o in una società la valutazione del magazzino, sono valutazioni non largamente soggettive, ma comunque che ognuno fa individualmente, e bisogna che grandi fatti dolosi sulle valutazioni siano anch'essi perseguiti. Non è chiarissimo dalla successione dei testi se questo sarà. Io francamente penso che il problema non ci sia, perché le valutazioni mi sembrano comprese, ma qualcuno ha sollevato il problema e siamo attenti che non ci sia qualche manina che alla Camera esclude le valutazioni. Ecco. Perché, chiediamo a tutti, Bragantini, perché sono così importanti le valutazioni? Perché che è vero che quando io valuto il magazzino di una società faccio delle valutazioni che possono essere un po' più su o un po' più giù, però la valutazione del magazzino di una società determina l'utile, perché se io sottovaluto il magazzino sto abbattendo l'utile, se lo sopravvaluto lo sto gonfiando, certo. E un fatto doloso su questi temi è importante. Allora, vedo che alcuni chiedono se vale anche per i bilanci dei sindacati, non penso proprio, non sono società, però Bragantini, visto che l'ho ospite, prima di concludere, questo ci porta a un tema che le puoi immaginare, cioè ci sono ancora dei soggetti in questo paese la cui trasparenza, adesso è chiaro che alla cronaca sono le fondazioni di carattere politico, dopo quello che è successo a Ischia appunto le intercettazioni, non in coinvolgimento nelle indagini, ma le intercettazioni in cui veniva chiamato in causa anche Massimo D'Alema, non accusato e non indagato. Però dico, non è che qui stiamo ragionando molto sulle società quotate o non quotate, poi abbiamo delle sacche, delle zone d'ombra, perché non capisco perché ci debbano essere, per esempio, le fondazioni in cui è difficile reperire la trasparenza. Trasparenza non vuol dire mettere l'argogna a nessuno, è giusto che ci siano donazioni alla politica, l'abbiamo sempre detto, in molti paesi occidentali il privato dona dei soldi alla fondazione o al leader politico del partito in cui crede, ma perché non si corre la sensazione, non si corre il rischio di dare la sensazione che poi ci sono alcune sacche che invece devono restare poco trasparenti? Certamente sì, sono d'accordo con quello che lei dice, credo che ci sia un problema sulle associazioni, ci sia un problema sui sindacati, ci sia un problema sui partiti, perché io personalmente ritengo che i partiti dovrebbero essere finanziati dallo Stato, cioè un finanziamento pubblico ai partiti che è stato sostanzialmente abolito, per me ci dovrebbe essere, ma i partiti dovrebbero essere regolati e non lo sono. I bilanci dei partiti sono soggetti a delle, diciamo, revisioni all'acqua di rose, non c'è il rigore che ci dovrebbe essere sui partiti, sulle associazioni che finanziano la politica, sui sindacati e sulle fondazioni. Le fondazioni, nel momento in cui reclamano un ruolo sociale, che indubbiamente svolgono soprattutto in certe regioni, dovrebbero essere più aperte. Io penso che dovrebbero regolarmente mostrare tutti i loro dati sulle principali pagine dei giornali italiani, davanti agli occhi di tutti, che possano vedere come sono spesi questi soldi. Sono sicuro che sul sito delle fondazioni c'è tutto, ma se fosse spiegato al pubblico sui giornali sarebbe meglio. Allora grazie Giovanni Negri del Sole 24 Ore, grazie a Salvatore Bragantini, da Sebastiano Barisoni veramente tutto, vi lascio alla nostra programmazione, domani Focus Economia torna dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente. Per lavoro o vacanze scegli il noleggio Europe Car. Europe Car, moving your way. Vi ha presentato Focus Economia.